io prima l'ho preso con un po' di stupore, quasi di staccato, no? Poi ho capito che questo ridava senso alla nostra battaglia in un periodo così difficile, perché è il riconoscimento che mai dall'impero romano in poi avevamo avuto quasi 3 generazioni di pace. È una cosa incredibile, no? Tutti questi monumenti ai caduti che abbiamo dappertutto, no? Questo senso che le unità nazionali si facevano soprattutto con la guerra, no? E non abbiamo, da 3 generazioni i nostri ragazzi non sono più morti nei fronti europei, e questo è il grande senso dell'Europa. Adesso bisogna fare la seconda parte, che è la solidarietà, ecco. Presidente, 60 anni fa le nazioni erano 6, oggi sono 27 e l'allargamento continua. In questo nuovo schema, formidabile da un punto di vista storico, quello che sta accadendo in queste settimane ci dà gli strumenti perché tra 60 anni si possa davvero raccontare un completamento della trasformazione dell'Unione Europea? Secondo me è successo qualcosa di grosso, molto trascurato, che siamo entrati senza accorgercene nella cabina dell'Europa a più velocità, cioè la Tobin Tax l'ha approvato alcuni stati, altri no. Questo è fantastico, cioè i paesi che riescono a fare delle cose simili le fanno, quelli che non vogliono farle e non le fanno. E così la Gran Bretagna, che è stata finora un freno terribile negli ultimi anni, invece di frenare, dice: ragazzi, capisco, andate avanti voi, io non ci sto, ma voi andate avanti. Sono quelle svolte che sono percepite solo dopo, no? Ma l'unanimità è stata negli ultimi anni il freno all'Europa, no? Perché con 27 paesi, mentre l'unanimità a 6 era spontanea, no? Ma con 27 paesi non si può più andare avanti con le stesse metodologie.